senti fashion, ma fa lo stesso. Se vuoi finirla come Final Destination. E se ti chiedo perché hai mollato, mi riempi di bugie in modo limitato. Mi dici adesso che vuoi star sola, hai mal di testa e ti senti un po' confusa. Non c'entra un uomo, te l'assicuro, devi capire che mi servirà la pausa di riflessione, lo strumento per te, soluzione migliore se consideri che la pausa di riflessione per la tua libertà è come un'infezione che mi contagerà. La pausa di riflessione. E dopo un anno ancora aspetto uno squillo, una chiamata m'è arrivata. Se lo sapevo, se ci pensavo, andavo in pausa almeno un mese l'anno scorso. Se cerco sfogo, se sto in tensione, mi toglierà dalle difficoltà la pausa di riflessione, lo strumento per te, soluzione migliore se consideri che la pausa di riflessione per la tua libertà è come un'infezione che mi contagerà. La pausa di riflessione.